Capitolo 53. Il signor Wickham rimase tanto completamente soddisfatto di quella conversazione che non si preoccupò più di ritornare sull'argomento né di condurvi la sua cara cognata Elizabeth. Quanto a lei, fu lieta di constatare che aveva detto abbastanza per ridurlo al silenzio. Venne presto il giorno della sua partenza e di quella di Lydia, e la signora Bennet fu costretta ad accettare una separazione che prometteva di durare almeno un anno intero, visto che il marito non si era affatto lasciato persuadere a far suo il progetto di andare tutti quanti a Newcastle. Oh, Lydia, quando ci rivedremo? Oh, signore, non lo so, forse tra 2 o 3 anni. Scrivimi spessissimo, tesoro, più che posso, ma lei sa che le donne maritate non hanno mai molto tempo per la corrispondenza. Possono scrivermi le mie sorelle, loro non avranno altro da fare. Gli addii del signor Wickham furono molto più teneri di quelli della moglie. Sorrise, si atteggiò a bell'uomo e disse molte amabilità. È un bel campione, disse il signor Bennet appena furono fuori di casa. Un bel campione come non ne ho mai visto l'uguale. Sorride, bamboleggia e ci fa la corte a tutti. E sono proprio orgogliosissimo. Sfido persino Sir William Lucas a far sfoggio di un genero più pregevole. La lontananza della figliola fece cadere la signora Bennet in una cupa tristezza per diversi giorni. Penso sovente che non c'è nulla di peggio che il separarsi dagli amici. Ci si deve sentire solitari senza di loro. Ecco, vede mamma, questa è la conseguenza dell'aver maritato una figliola, rispose Elisabetta. Si deve sentire più soddisfatta di avere le altre 4 nubili. Non è questo. Lydia non mi ha lasciata perché ha preso marito, ma soltanto perché la combinazione vuole che il reggimento del suo sposo sia tanto lontano. Se fosse stato più vicino, non se ne sarebbe andata così presto. Ma lo stato di abbattimento in cui quella circostanza l'aveva ridotta trovò sollievo di lì a poco e il suo cuore tornò ad aprirsi ad agitate speranze grazie a una certa notizia che incominciò a diffondersi. La custode di Netherfield aveva ricevuto ordini di far preparativi per l'arrivo del padrone, che sarebbe giunto di lì a un paio di giorni per qualche settimana di caccia. La signora Bennet non stava più nella pelle, guardava Jane e sorrideva. E scuoteva reiteratamente il capo. Bene, bene. E così, signor Bingley, deve arrivare, sorella mia. Perché era stata la signora Phillips a portare per prima quella notizia. Tanto meglio allora. Non che la cosa mi stia molto a cuore, del resto, per noi è un estraneo, lo sai benissimo, e non sono certo io quella che ha voglia di rivederlo. Ma comunque, bentornato a Netherfield, se così gli fa piacere. E poi, chissà che cosa può succedere. Ma questo non ci riguarda. Tu sai, sorella, che da molto tempo abbiamo stabilito di non farne mai più parola. Ma dunque è proprio sicuro che arriva? Stanne certa, le rispose l'altra. La signora Nichols è stata a Meryton ieri sera. L'ho vista passare e sono uscita apposta per sapere quando c'era il di vero. Ed ella mi confermò che era vero, verissimo. Verrà giovedì al più tardi, molto probabilmente già mercoledì. Stava andando dal macellaio, mi disse, appunto per ordinare un po' di carne per mercoledì e ha 3 paia d'anatre proprio appunto per essere ammazzate. La signorina Bennet non aveva potuto impedirsi di cambiar colore nel sentire che Bingley arrivava. Da molti mesi non l'aveva più nominato, nemmeno con Elizabeth, ma ora, non appena si trovarono sole, disse: Ti ho vista oggi che mi guardavi, Lizzy, quando la zia ci ha portato le ultime novità, e so di aver avuto l'aria sgomenta, ma non credere che sia stato per alcun futile motivo. Mi sono sentita confusa, soltanto lì per lì, perché sentivo che gli altri mi avrebbero guardata. Ti assicuro che la notizia non mi procura né piacere né dispiacere. Sono lieta di una cosa soltanto, che venga da solo, così lo vedremo meno. Non che io abbia timore di me stessa, ma mi spaventano le osservazioni della gente. Elisabetta non sapeva come interpretare la cosa. Se non l'avesse veduto nel Derbyshire, avrebbe potuto crederlo capace di venire senz'altro scopo che quello ufficialmente ammesso, ma ella lo riteneva ancora innamorato di Jane ed esitava fra l'ipotesi che venisse col permesso del suo amico e quella che avesse abbastanza coraggio da farne a meno. Eppure è ben dura che questo povero diavolo non possa venire in una villa che ha legalmente preso in affitto senza dar luogo a tutte queste supposizioni. Ma lasciamo che se la sbrighi da solo. Nonostante quelli che sua sorella dichiarava e realmente credeva essere i propri sentimenti nell'attesa di quell'arrivo, Elizabeth si avvide facilmente che il suo animo ne era turbato. Jane appariva più distratta, più più ineguale di quanto si mostrasse di solito. L'argomento che circa un anno avanti era stato così caldamente discusso fra i genitori tornò di nuovo sul tappeto. Caro, disse la signora Bennet, appena arriva il signor Bingley, tu andrai naturalmente a trovarlo. No, no, mi hai costretto a fargli visita l'anno scorso e mi avevi anche promesso che se fossi andato a trovarlo, lui avrebbe sposato una delle figliuole. Ma tutto è finito in niente, non voglio ritentare un'impresa inutile. La moglie gli fece osservare l'assoluta necessità di una simile attenzione da parte di tutti i vicini quando egli fosse tornato a Netherfield. È un genere di etichetta che io disprezzo, egli rispose. Se desidera la nostra compagnia, venga a cercarsela, sa dove abitiamo. Io non ho voglia di sprecare il mio tempo a correre dietro ai miei vicini ogni volta che vanno e vengono. Ebbene, l'unica cosa che ti posso dire è che ti dimostrerai di una vilania senza pari se non andrai a fargli visita. Tuttavia, ciò non impedirà di invitarlo qui a pranzo, come sono decisa a fare. Dobbiamo far venire fra poco la signora Long e i Golding. Saremo dunque in 13 compresi noi, così ci avanzerà giusto un posto a tavola per lui. Confortata da questa risoluzione, si sentì di sopportare meglio la cattiva reazione del marito. Era però molto umiliante prevedere che tutti i vicini avrebbero perciò visto il signor Bingley prima di loro, avvicinandosi il giorno del suo arrivo. Jane disse a sua sorella: comincio a rimpiangere che venga. Non sarebbe niente, io potrei vederlo con la massima indifferenza, ma non posso sopportare che se ne parli così di continuo. La mamma lo fa a fin di bene, ma non sa, nessuno sa quanto mi fa soffrire con quello che dice. Sarò felice quando questo suo soggiorno a Netherfield sarà finito. Vorrei saperti dire qualcosa che ti consolasse, le rispose Elizabeth, ma ne sono totalmente incapace. Cerca di comprendermi. A me è anche negata la solita soddisfazione di predicare la pazienza a chi soffre, perché tu ne hai sempre tanta. Il signor Bingley arrivò. Con l'aiuto della servitù, la signora Bennet fece in modo di venirlo a sapere immediatamente, così da prolungare il più possibile la durata delle sue inquietudini e del suo nervosismo. Contava i giorni che occorreva lasciar passare prima di spedire l'invito, disperando di vederlo prima. Ma la terza mattina, dopo il suo arrivo nello Herefordshire, lo vide dalla finestra del suo spogliatoio nel lato di entrare nel cancelletto e venire cavalcando alla volta della casa. Chiamò sollecita le figlie a prendere parte alla sua gioia. Jane non si mosse dal tavolo, ma Elizabeth, per far piacere alla mamma, corse alla finestra. Guardò. Vide il signor Darcy in compagnia dell'amico e tornò a sedere accanto alla sorella. C'è con lui un signore, mamma, disse Catherine. Ma chi può essere? Sarà qualche suo amico, cara. Non ne ho la più lontana idea. Oh, bella, rispose Catherine. Si direbbe quello che stava prima con lui, il signor, come si chiamava? Quell'uomo alto, superbo. Oh, Dio mio, il signor Darcy! Davvero che si direbbe lui? Ebbene, qualunque amico del signor Bingley sarà sempre il benvenuto qui, questo è certo. Ma a parte ciò, costui mi è odioso soltanto a vederlo. Jane guardò Elizabeth, sorpresa e preoccupata un tempo. Del loro incontro nel Derbyshire sapeva ben poco e perciò capiva l'imbarazzo di cui doveva trovarsi sua sorella nel vederlo quasi per la prima volta dopo aver ricevuto da lui quella lettera di spiegazioni. Tutte e due le sorelle si sentivano alquanto a disagio. Ciascuna era in ansia per l'altra e naturalmente per se stessa. Intanto la madre continuava a parlare della sua antipatia per il signor Darcy e del suo proposito di mostrarsi cortese con lui solamente in quanto era amico del signor Bingley, senza che né l'una né l'altra la udissero. Elisabetta aveva però dei motivi d'apprensione che Jane non poteva supporre, poiché non aveva ancora trovato il coraggio di mostrarle la lettera della signora Gardiner o di narrarle del suo mutato sentimento nei confronti di lui. Per Jane egli non era altro che un giovane le cui profferte Elisabetta aveva respinto e del quale aveva sottovalutato il merito, ma per lei che ne sapeva di più, egli era la persona verso cui tutta la famiglia era debitrice del massimo dei benefici. E a cui ella stessa guardava con interesse, se non proprio così tenero, a meno altrettanto ragionevole e giustificato come quello che Jane provava per Bingley. Il suo stupore nel vederlo giungere a Netherfield, a Longbourn, per venirla deliberatamente a cercare fu quasi pari a quello che aveva provato nel constatare per la prima volta il suo mutato contegno nel Derbyshire. Il colorito, che aveva abbandonato le sue guance, ritornò per un attimo più intenso e un sorriso di felicità le illuminò lo sguardo mentre un pensiero le traversava rapido la mente, che l'affetto e i desideri di lui dovevano essere rimasti inalterati. Ma non voleva abbandonarsi a quella certezza. Vediamo prima come si comporta, si disse. Sarò sempre in tempo a sperare. Si mise intenta al lavoro, facendo ogni sforzo per apparire tranquilla. Non osava sollevare lo sguardo finché una sollecita curiosità non glielo fece dirigere sul volto della sorella nel momento in cui il domestico si avvicinava all'uscio. Jane appariva un poco più pallida del consueto, ma più composta di quanto Elizabeth si era aspettata. Il colorito si fece più acceso quando i due signori comparvero. Le ricevette tuttavia con discreta disinvoltura e con un contegno irreprensibile, ugualmente immune da qualsiasi risentimento o da segni di inutile compiacimento. Elizabeth rivolse ad entrambi quel minimo di parole richiesto dall'educazione e si rimise al lavoro con un fervore inconsueto. Si era arrischiata a lanciare a darsi un'occhiata soltanto. Aveva il suo solito fare serio, piuttosto le parve il tono che aveva sempre avuto nello Herefordshire, non quello che ella gli aveva visto a Pemberley. Ma forse non gli riusciva di essere, in presenza della signora Bennet, quello che era stato con gli zii. Era una supposizione penosa, ma non inverosimile. Anche Bingley l'aveva scrutato un istante soltanto, e in quell'attimo le era apparso soddisfatto e impacciato al tempo stesso. La signora Bennet lo accolse con un grado di cortesia tale da far arrossire di vergogna le figlie, specie in paragone alla fredda, cerimoniosa urbanità con cui si era rivolta al suo amico. Elizabeth, che sapeva come la madre dovesse a quest'ultimo se la figlia prediletta era stata preservata da irrimediabile vergogna, era in particolar modo offesa e addolorata da una differenza così fuori proposito. Dopo averle chiesto notizie dei signori Gardiner, domanda alla quale ella non seppe rispondere senza provar confusione, Darcy non disse quasi più parola. Non era seduta accanto a lei, forse a ciò doveva scriversi la ragione del suo silenzio, ma nel Derbyshire non era stato così. Là si era intrattenuto coi suoi amici quando non gli era stato possibile conversare con lei, ma ora erano già trascorsi parecchi minuti senza che si udisse il suono della sua voce. E quando di tanto in tanto, incapace di resistere all'impulso della curiosità, Elizabeth sollevava lo sguardo verso di lui, lo trovava intento a guardare Jane non meno di lei, e spesso unicamente il pavimento. Era chiaro che era più pensieroso e meno preoccupato di piacere di quanto si era incontrati l'ultima volta. Ella ne fu delusa e si indignò con se stessa nel rendersene conto. Potevo aspettarmi che fosse diverso. Si disse, ma allora perché è venuto? Non si sentiva incline a conversare con nessuno all'infuori di lui e a lui non aveva quasi il coraggio di rivolgere la parola. Gli chiese notizie della sorella, ma non seppe far di più. È passato un mucchio di tempo da che lei se n'è andato, signor Bingley, osservò la signora Bennet. Bingley ne convenne prontamente. Cominciavo a temere che non sarebbe più tornato. La gente ha anche detto, è vero, che aveva intenzione di lasciare per sempre questi paraggi. A San Michel, ma io spero che non sia vero. Ne sono avvenute di cose nel nostro vicinato da quando lei è partito. La signorina Lucas è sposata e sistemata, e così pure una anche delle mie figliole. Forse l'avrà sentito dire, anzi, deve averlo letto nei giornali. Ne hanno dato notizia il Times e il Courier, lo so, ma non in modo dovuto. C'era scritto solo il signor George Wickham e la signorina Lydia Bennet si sono recentemente uniti in matrimonio. Senza un accenno al padre di lei o alla casa dove abitava o che so io. D'altronde il testo l'aveva redatto mio fratello Gardiner. E come sei riuscito a combinare un tal pasticcio? Me lo domando. L'ha visto? Bingley rispose di sì e le fece i rallegramenti. Elizabeth non osava levare lo sguardo e non avrebbe saputo dire che faccia facesse il signor Darcy. È una gran bella cosa davvero avere una figliola accasata, continuò sua madre, ma nello stesso tempo, che cosa dolorosa per me, signor Bingley, vedermela portare via. Sono andati a stare a Newcastle, un sito proprio nel nord, pare, e dovranno rimanere chissà fin quando. Lui è lassù il suo reggimento, poiché immagino che saprà che ha lasciato la milizia del Shire e si è arruolato nell'esercito regolare. Grazie al cielo ha qualche amico, sebbene forse non tanti quanti ne meriterebbe. Elizabeth, che sapeva questa frecciata essere diretta al signor Darcy, sentì così avvilita e vergognosa da non poter più stare ferma sulla sedia. Gliene derivò tuttavia la forza di parlare, più di quanto non avesse mai trovata fino allora, e domandò a Bingley se questa volta avesse intenzione di soggiornare per qualche tempo nella contrada. Probabilmente qualche settimana, le fu risposto. E quando avrà ammazzato tutti i suoi uccelli, signor Bingley, gli disse la madre, la prego di venire qui, nella tenuta del signor Bennet, a sparare a quanti le farà piacere. Sono certa che mio marito sarà lietissimo di farle questo favore e le serverà gli stormi più belli. L'umiliazione di Elizabeth non fece che aumentare nell'ascoltare queste inutili, queste inopportune proteste di cortesia. Se avessero dovuto sorgere di nuovo le liete prospettive da cui si erano lasciati lusingare l'anno dianzi, adesso ne era convinta, tutto affrettava la stessa malinconica conclusione. Sentì in quell'istante che anni e anni di felicità non avrebbero potuto ripagare Jane o lei di quei momenti di avvilente trepidazione. La sola cosa che mi auguro con tutto il cuore, si disse, è di non ritrovarmi mai più né con l'uno né con l'altro. La loro compagnia non può procurarci un tal diletto da offrire compenso a tanta amarezza. Possa io non rivederli mai più, né l'uno né l'altro. Eppure quell'amarezza, che anni e anni di felicità non sarebbero bastati a compensare, trovò poco dopo sollievo nella constatazione di come la bellezza di sua sorella avesse riacceso l'ammirazione del suo antico innamorato. Appena giunto, egli le aveva parlato poco, ma poi di minuto in minuto sembrava essersi fatto più attento nei confronti di lei. La trovava bella quanto l'anno prima e altrettanto buona e spontanea, anche se non ugualmente discorsiva. Jane faceva di tutto per apparire sempre la stessa ed era davvero convinta di chiacchierare come di consueto, ma aveva la mente presa da tanti pensieri che non sempre si accorgeva di stare zitta. Quando i signori si alzarono per andarsene, la signora Bennet, memore della sua premeditata cortesia, l'invitò a venire a Longbourn di lì a pochi giorni e a rimanervi per il pranzo. Lei mi è sempre debitore di una visita, signor Bingley, perché l'inverno scorso, quando partì per la città, ci promise di venire a dividere, appena tornato, un pasto in famiglia con noi. Non l'ho dimenticato, come vede, e le assicuro, anzi, di esserci rimasta parecchio male quando vidi che non tornava a mantenere la sua promessa. Bingley rimase un po' sconcertato da quell'uscita e disse qualcosa del suo rincrescimento per esserne stato impedito dagli affari. Poi se ne andarono. La signora Bennet aveva avuto una gran voglia di invitarli a rimanere a pranzo quello stesso giorno, ma benché tenesse sempre un'ottima tavola, le parve che non ci volessero meno di due portate per un uomo sul quale aveva fatto così bramosi disegni, o per soddisfare l'appetito e l'orgoglio di uno che aveva 10.000 sterline di rendita all'anno. Capitolo 54. Appena se ne furono andati, Elizabeth uscì all'aperto a riprendere coraggio, o meglio, a riflettere indisturbata su quegli argomenti più che mai fatti per abbatterla. Il contegno del signor Darcy la stupiva e l'indignava. Perché è venuto? Se era soltanto con lo scopo di starsene zitto, pensieroso e indifferente. Non riusciva a trovare una risposta che le desse soddisfazione. È ancora stato capace di rendersi amabile e simpatico ai miei zii quando è stato in città. E perché non a me? Se mi teme, perché viene qui? Se non gli importa più nulla di me, perché tace? Che tormento, non voglio più pensare a lui. Tale risoluzione fu per poco tempo involontariamente mantenuta dall'avvicinarsi di Jane, che le andò incontro con un viso gaio, dando a divedere di essere più soddisfatta della visita che non Elizabeth. Ora che ho superato il primo incontro, mi sento perfettamente a posto. So valutare la mia forza e non mi lascerò più turbare dalla sua venuta. Sono contenta che venga a pranzo martedì. Tutti avranno modo di constatare che ci siamo ritrovati da ambo le parti come due conoscenti qualsiasi, due persone indifferenti. Già, indifferentissime davvero, commentò Elizabeth scherzosa. Oh, Jane, bada! Cara Lizzy, non mi crederei così debole da essere in pericolo ora. Credo che tu sia in grandissimo pericolo di renderlo più che mai innamorato di te. Non rividero i due giovani fino al martedì, e nel frattempo la signora Bennet diede la stura a tutte le gaie prospettive che la normale educazione e la naturale bonomia di Bingley durante quella visita di mezz'ora avevano rinfocolato. Il martedì ci fu gran riunione a Longbourn e i due più ansiosamente attesi giunsero molto per tempo, facendo onore alla loro puntualità di sportivi. Quando si riunirono in sala da pranzo, Elisabeth osservò trepida se Bingley avesse rioccupato il posto che in tutti i loro precedenti incontri gli era spettato accanto alla sorella. La loro provvida madre, occupata dalla stessa idea, si guardò bene dall'invitarlo a prendere posto accanto a lei. Appena messo piede nella sala, Bingley sembrò esitare, ma Jane si stava guardando intorno per caso e per caso sorrideva. Fu deciso. Lei si sedette accanto. Elizabeth, con una sensazione di trionfo, si volse a guardare l'amico, il quale sopportò la cosa con nobile indifferenza, ed ella avrebbe sospettato che Bingley aveva ormai ricevuto da lui il benestare per essere felice, se non avesse notato che anche gli occhi di lui si volgevano sul signor Darcy con espressione di spavento, mezzo serio, mezzo faceto. Durante il pranzo, il contegno che egli mantenne verso Jane fu tale da rivelare per lei un'ammirazione che, per quanto più controllata di un tempo, convinse Elizabeth di una cosa. Se la faccenda fosse dipesa soltanto da lui, la felicità di Jane e di Bingley sarebbe stata garantita entro breve tempo. Sebbene non osasse contare sulle conseguenze, il comportamento di lui bastava a riempirla di soddisfazione. Era la sola cosa che valesse a tenerle alto il morale, poiché non poteva essere d'umor lieto. Il signor Darcy era seduto lontano da lei quasi quant'era lunga la tavola. Al suo fianco aveva la signora Bennet. E Elizabeth sapeva quanto poco diletto una disposizione simile potesse procurare ad entrambi, o contribuisse a mettere l'una e l'altro nella luce migliore. Non era abbastanza vicina per udire i loro discorsi, ma notava quanto di rado si rivolgessero la parola e in che tono freddo e cerimonioso. Le sgarberie di sua madre rendevano Elizabeth ancora più dolorosamente conscia di quanto gli dovevano, e talvolta avrebbe dato qualunque cosa al mondo pur di potergli dire che la sua bontà non era né ignorata né incompresa dall'intera famiglia. Sperava che la sera avrebbe concesso loro qualche occasione di stare insieme, che la giornata non sarebbe trascorsa senza consentir loro di scambiare qualche parola di più, che non fosse il breve cerimonioso saluto col quale l'aveva accolto al suo arrivo. Inquieta e agitata com'era, il tempo passato in salotto prima del ritorno dei signori fu per lei così uggioso e melanconico da renderla quasi scortese. Anticipava la loro venuta come il momento da cui sarebbe dipesa ogni possibilità di gioia per quella sera. Se non viene da me, allora, si diceva, rinuncio a lui per sempre. Gli uomini entrarono e le parve che il viso di lui promettesse di rispondere alle sue speranze, ma ahimè, le signore si erano così fittamente assiepate intorno alla tavola dove la signorina Bennet stava preparando il tè ed Elizabeth serviva il caffè, che non c'era neppure un posto vuoto accanto a lei dove collocare una sedia. E all'avvicinarsi dei signori, una delle signorine le si fece ancora più accosto per dirle sottovoce: gli uomini non devono venire a dividerci, sia ben chiaro. Non abbiamo bisogno di nessuno di loro, non è vero? Darcy si era diretto verso un'altra parte della sala. Ella lo seguì con gli occhi, invidiò tutti quelli a cui rivolse la parola, non ebbe quasi più pazienza di servire il caffè a ciascuno. E poi si infuriò con se stessa per essere così sciocca. Un uomo che si è visto respingere una volta, come ha potuto essere abbastanza stupida da sperare che mi ami di nuovo? C'è un solo uomo al mondo che non insorgerebbe contro una così gran prova di debolezza come una seconda proposta di matrimonio alla stessa donna. Non c'è abbassazione che ripugni loro di più. Tuttavia, quando gli venne a riportare la chicchera di persona, ritrovò un poco di animazione e colse quel pretesto per domandargli: è ancora a Pemberley, sua sorella? Sì, vi resterà fino a Natale. È sola? I suoi amici sono tutti partiti? C'è con lei la signora Annesley. Gli altri sono a Scarborough da 3 settimane. Non seppe trovare altro da dire, ma se egli avesse desiderato intrattenersi con lei, forse avrebbe avuto successo maggiore. Darcy le rimase accanto per qualche minuto, invece, in assoluto silenzio, e infine si allontanò dopo qualche altra parola bisbigliata sottovoce dalle signorine. Sparecchiata la tavola e disposta ogni cosa per il gioco delle carte, tutte le signore si alzarono ed Elizabeth sperò allora di essere presto raggiunta da lui quando tutti i suoi piani furono sconvolti nel vederlo preda della madre a caccia di giocatori di whist. Qualche minuto dopo era seduto in gruppo insieme agli altri. Allora perdette ogni speranza di finir bene la giornata. Per tutta la sera furono confinati a tavoli diversi e non le rimase altro da sperare se non che gli occhi di lui si volgessero con tanta frequenza dalla parte della sala dove era lei, da farlo giocare male quanto lei. La signora Bennet aveva progettato di far rimanere per la cena i due signori di Netherfield, ma sfortuna volle che la loro carrozza fosse pronta prima di tutte le altre, ed ella non ebbe più motivo di trattenerli. Ebbene, figliole, disse appena furono lasciate sole, che ne dite di questa giornata? Mi pare che tutto si sia svolto alla perfezione, ve lo dico io. Il pranzo è servito meglio di quanto io abbia mai veduto prima, la selvaggina cotta a punto, e tutti hanno detto di non aver mai mangiato un cosciotto così tenero. La minestra era 50 volte migliore di quella che ci hanno dato dai Lucas la settimana scorsa, e persino il signor Darcy ha dovuto riconoscere che le pernici erano molto ben cotte, lui che ha almeno due o tre cuochi francesi. Quanto a te, Jane mia, non ti ho mai visto così bella. Me l'ha detto anche la signora Long quando le ho domandato se non era della mia opinione. E sai che mi ha detto ancora? Oh, signora Bennet, la vedremo a Netherfield finalmente. Parola d'onore. Quella signora Long è una santa creatura e le sue nipoti sono ragazzine per bene, punto belle. Mi piacciono immensamente. Insomma, la signora Bennet era d'ottimo umore, aveva visto abbastanza del contegno di Bingley verso Jane per essere convinta di poterlo accalappiare definitivamente. E quando era in quello stato d'animo, le sue speranze per il bene della famiglia andavano a tal segno oltre il limite della ragione, che il giorno dopo fu proprio delusa di non rivederlo lì, a fare la sua dichiarazione d'amore. È stata una piacevolissima giornata, disse Jane ad Elizabeth. Gli ospiti erano così ben scelti, così affiatati. Spero che ci si ritroverà presto. Elizabeth sorrise. Non devi fare così, Lizzy. Non devi sospettare di me. È una cosa che mi mortifica. Ti assicuro che ormai ho imparato a godere della sua conversazione come di quella di un giovane simpatico e intelligente, senza formulare per questo il più piccolo desiderio. Dal modo come si comporta ora, capisco perfettamente che non ha mai avuto intenzione di conquistarsi il mio affetto. È semplicemente che è dovuto di maggior cortesia di tratto, di più vivo desiderio, di piacere di chiunque altro. Sei proprio cattiva. Non vuoi permettermi di sorridere e mi ci provochi continuamente. Com'è difficile farsi credere in certi casi e com'è impossibile in certi altri. Ma perché ti piace persuadermi che provo di più di quanto io confesso? Codesta è una domanda alla quale trovo difficile rispondere. A tutti noi piace dare degli ammaestramenti, benché si sappia insegnare soltanto ciò che non mette conto di sapere. Perdonami. E se persisti in questa indifferenza, non prendere proprio me per confidente. Capitolo 55. Qualche giorno dopo quella visita, il signor Bingley venne di nuovo, e solo. Il suo amico l'aveva lasciato quella mattina diretto a Londra, ma doveva far ritorno di lì a 10 giorni. Rimase con loro oltre un'ora, in condizioni di spirito particolarmente liete. La signora Bennet lo invitò a rimanere per il pranzo, ma con molte espressioni di rammarico, e gli dichiarò di avere un altro impegno. La prossima volta che verrà, spero che avremo più fortuna. Sarebbe stato lietissimo in qualsiasi momento, eccetera, eccetera, e se la signora glielo avesse consentito avrebbe colto una sollecita occasione di venirli a trovare. Può venire domani? Sì, per l'indomani non aveva impegni di sorta ed accettò con entusiasmo l'invito. Venne, e così per tempo che nessuna delle signore era vestita. La signora Bene si precipitò nella stanza delle figliole in vestaglia, mezzo spettinata, gridando: «Jane mia, sbrigati a scendere! È arrivato il signor Bingley, è arrivato!» «Davvero, spicciati, spicciati! Su, Sara, vieni qui subito dalla signorina Bennet e aiutala a mettersi il vestito. Lascia pur stare i capelli della signorina Lizzy!» «Scenderemo il più presto possibile!» rispose Jane. «Ma mi pare che Kitty sia più avanti di noi. È salita mezz'ora fa!» Oh, al diavolo Kitty! Che c'ha a che fare lei in tutto questo? Via, sbrigati, sbrigati! Dov'è la tua cintura, cara? Ma quando la mamma fu uscita, Jane non volle lasciarsi indurre a scendere senza una delle sorelle. La stessa premura di lasciarli soli si rivelò di nuovo la sera. Dopo il tè, il signor Bennet si ritirò in biblioteca, secondo la sua abitudine, e Mary salì per suonare il pianoforte. Rimossi così due dei cinque ostacoli, la signora Bennet per un po' continuò a guardare e a strizzare l'occhio a Elizabeth e a Catherine senza nessun effetto. Elizabeth non la guardava e quando Catherine finalmente se ne accorse domandò molto innocentemente: «Che c'è, mamma? Perché continua a strizzarmi l'occhio? Che devo fare?» «Niente, bimba mia, niente. Non ti ho mica strizzato l'occhio. Rimase ancora seduta per altri 5 minuti, ma incapace di sciupare una così preziosa occasione. Si alzò improvvisamente in piedi dicendo a Catherine: «Vieni, amor mio, devo dirti una cosa», e la condusse fuori dalla stanza. Jane lanciò subito un'occhiata a Elizabeth, che le rivelò la sua disperazione per quella manovra, esprimendole la preghiera di non secondarla, lei almeno. Pochi minuti dopo la signora Bennet socchiuse l'uscio e chiamò: «Lizzie cara, ho bisogno di parlarti». Elizabeth fu costretta ad alzarsi. «Tanto vale lasciarli soli, sai», le disse la madre appena l'ebbe raggiunta nell'entrata. «Catherine e io andiamo di sopra nel mio salottino». Elizabeth non tentò nemmeno di far ragionare la mamma, ma rimase silenziosa nell'anticamera finché quella non si fu allontanata con Catherine, poi ritornò nel salotto. Per quel giorno nessuno dei piani della signora Bennet sortì alcun effetto. Bingley fu tutto ciò che aveva di più affascinante, salvo il pretendente dichiarato di sua figlia. La sua disinvoltura, la sua allegria lo resero una compagnia piacevolissima per la loro serata, ed egli sopportò tutto il malaugurato zelo della madre e ne ascoltò tutte le scempiaggini con una generosità e un dominio di sé che gli guadagnarono tutta la gratitudine delle figlie. Non ci fu bisogno di un invito per farlo restare a cena, e prima che si accomiatasse, grazie soprattutto alle proprie mene e a quelle della signora Bennet, eccolo già di nuovo impegnato a tornare l'indomani mattina per andare a caccia col padrone di casa. Dopo quel giorno, Jane non parlò più della sua indifferenza. Non fu detta fra le sorelle una sola parola riguardo a Bingley. Ma Elizabeth si coricò nella lieta convinzione che tutto dovesse presto concludersi a meno che il signor Darcy tornasse prima del tempo stabilito. Però nel suo intimo si sentiva abbastanza sicura che quel signore non era affatto estraneo a quanto accadeva. Bingley fu puntuale all'appuntamento e passò la mattinata col signor Bennet come era stato convenuto. Questi si rivelò molto più simpatico di quanto non si aspettasse il suo compagno. Non v'era nulla in Bingley, né presunzione, né stravaganza, che potesse stuzzicare il suo senso del ridicolo o disgustarlo al punto da farlo stare zitto, e si dimostrò più comunicativo e meno eccentrico di quanto l'altro avesse mai veduto. Naturalmente Bingley rientrò con lui per pranzo e la sera la fantasia della signora Bennet si rimise all'opera per escogitare il mezzo di lasciare l'ospite solo con sua figlia. Elizabeth, che aveva da scrivere una lettera, si ritirò nel tinello con quell'intenzione subito dopo il tè. Siccome gli altri stavano tutti disponendosi a giocare alle carte, non c'era bisogno di lei per ostacolare i piani materni. Ma tornando in salotto, quando ebbe finita la lettera, si avvide con una immensa sorpresa che v'era ragione di temere che la mamma fosse stata troppo abile anche per lei. Nell'aprire la porta, scorse sua sorella e Bingley in piedi, ambedue, davanti al caminetto e come intenti a un discorso serio. E quando anche ciò non fosse bastato a destar sospetti, il loro viso nel volgersi che fecero scostandosi l'una dall'altra avrebbe rivelato ogni cosa. Si trovarono, era chiaro, in una situazione imbarazzante, ma la sua, pensò Elizabeth, lo era anche di più. I due non pronunciarono sillaba ed Elizabeth stava per andar via di nuovo quando Bingley, che come la sua compagna si era rimesso a sedere, si alzò di scatto e, bisbigliata qualche parola a Jane, corse fuori dalla stanza. Jane non seppe aver ritegno con Elizabeth, alla quale la confidenza avrebbe recato gioia, e subito abbracciandola le confessò con la più viva commozione di essere la creatura più felice del mondo. È troppo, assolutamente troppo! Non me lo merito. Perché non sono tutti felici come me? Elizabeth si rallegrò con una sincerità, un calore, un entusiasmo che le parole sarebbero inadeguate ad esprimere, ed ognuna di quelle sue buone parole era per Jane nuova fonte di felicità. Ma per il momento non poteva permettersi di rimanere con sua sorella o di dirle nemmeno la metà di quel che le restava da dire. Devo correre subito dalla mamma. Non vorrei a nessun costo mostrarmi indifferente alla sua affettuosa sollecitudine o lasciar che altri le desse la notizia. Lui è già andato dal babbo. Oh, Lizzie, saper che quanto annuncerò darà tanta gioia a tutta la mia cara famiglia. Come farò a sopportare tanta felicità? E corse dalla madre, che aveva interrotto di proposito la partita a carte e se ne stava di sopra con Catherine. Allora Elizabeth, che era rimasta sola, sorrise ripensando con quanta rapidità, quanta naturalezza si era finalmente conclusa una storia che aveva procurato loro nei mesi precedenti così amare incertezze. E questa, si disse, è dunque la fine di tutta la zelante circospezione del suo amico. di tutte le falsità e le manovre di sua sorella, la conclusione più lieta, più saggia, più ragionevole. Qualche minuto dopo fu raggiunta da Bingley, il cui colloquio col babbo era stato breve e conclusivo. «Dov'è sua sorella?» domandò in fretta aprendo la porta. «Di sopra, con la mamma. Sarà di ritorno subito, vedrà». Egli richiuse allora la porta e, fattosi accanto a lei, le richiese gli auguri e l'assicurazione del suo fraterno affetto. Elizabeth espresse con cuore sincero tutta la sua gioia e la prospettiva della loro parentela. Si strinsero la mano con grande cordialità e poi, finché Jane non fu tornata, dovette ascoltare tutto ciò che le aveva da dire sulla propria felicità e sulle perfezioni della sua fidanzata. Benché ne fosse innamorato, Elizabeth credeva davvero ragionevolmente fondate tutte le sue aspettative di bene, poiché si basavano sul solido senno e l'ottimo carattere di Jane, oltre alla generale affinità di sentimenti e di gusti che regnava fra loro. Fu una serata di non comune letizia per tutti. L'intima gioia della signorina Bennet conferiva una così dolce animazione al suo viso da farla apparire più bella che mai. Catherine bamboleggiava e sorrideva, nella speranza che fosse presto la sua volta. La signora Bennet fu incapace di dare il proprio consenso o di esprimere la propria approvazione in termini abbastanza calorosi da soddisfare i suoi sentimenti, benché per mezz'ora non parlasse a Bingley che di quello. E quando il signor Bennet si unì a loro per la cena, la sua voce e i suoi modi rivelarono chiaramente quanto fosse davvero felice. Tuttavia, non gli uscì dalle labbra una parola in merito a quanto era accaduto, fino a che il loro ospite non ebbe preso commiato per la notte. Ma appena egli se ne fu andato, si rivolse alla figlia dicendole: «Mi rallegro con te, Jane. Sarai una donna molto felice». Jane fu subito accanto a lui, lo baciò e lo ringraziò della sua bontà. «Sei una brava figliola», le rispose, «e mi fa molto piacere pensare che sarai così ben accasata. Non ho il minimo dubbio sulla riuscita della vostra unione. Le vostre indoli sono punto dissimili. Siete tutte e due così concilianti che non combinerete mai nulla, così bonaccioni che tutta la servitù vi imbroglierà e così generosi che spenderete sempre più delle vostre entrate. Spero di no, l'imprudenza e la spensieratezza da parte mia in questione di denaro sarebbero imperdonabili. Spendere più delle loro entrate? Ma caro Bennet, che vai dicendo?» esclamò sua moglie. «Ma come? Se ha 4-5 mila sterline di rendita all'anno, anzi di più con ogni probabilità». Poi, rivolta a sua figlia: «Oh, Jane mia, Jane cara, sono tanto felice che sono sicura di non chiudere occhio tutta la notte. Sapevo come sarebbe andata a finire, l'ho sempre detto che alla fin fine sarebbe andata così. Ero sicura che non potevi essere tanto bella per niente. Mi ricordo la prima volta che lo vidi l'anno scorso quando giunse nello Herefordshire, pensai subito che era molto facile che vi sareste intesi. È il più bel giovane che si sia mai veduto». Wicca, Lydia, tutti furono dimenticati. Jane divenne senza confronto la sua beniamina. In quel momento non le importava d'altri che di lei. Le sorelle minori cominciarono a invocare il suo interessamento su alcuni elementi di felicità che le avrebbe potuto in avvenire dispensare loro. Mary chiedeva di potersi servire della biblioteca di Netherfield e Catherine la supplicò di dare qualche festa di ballo ogni inverno. Da quel giorno, Bingley divenne naturalmente il visitatore quotidiano di Longbourn. Veniva spesso prima di colazione e rimaneva fin dopo la cena, salvo quando qualche barbaro vicino, mai abbastanza detestato, gli mandava un invito a pranzo che egli si sentiva in dovere di accettare. A Elizabeth rimase ora ben poco tempo per discorrere con sua sorella, perché finché Bingley era presente, Jane non aveva occhi che per lui, ma si trovò di notevole utilità ad entrambi in quelle ore di separazione che talvolta capitano. In assenza di Jane, egli si attaccava sempre a Elizabeth per il piacere di conversare con lei e quando Bingley se n'era andato, Jane ricercava ogni volta la stessa fonte di consolazione. «Mi ha reso così felice», le disse una sera, dicendomi che era rimasto del tutto all'oscuro del fatto che mi trovassi in città la primavera scorsa. Non l'avevo creduto possibile. «Io l'avevo sospettato», rispose Elizabeth. «Ma come ha spiegato la cosa?» Deve essere stato un maneggio delle sue sorelle. Non vedevano certo di buon occhio la sua amicizia per me, cosa di cui non mi meraviglio, dato che avrebbe potuto scegliere tanto più vantaggiosamente sotto molti aspetti. Ma quando vedranno, come spero, che il loro fratello con me è felice, saranno ugualmente soddisfatte e torneremo in buoni rapporti, benché non potremo mai più essere le amiche di una volta. Questo è il discorso meno indulgente che mai ti abbia mai sentito dire. Brava! Mi farebbe stizzare davvero se vedessi che ti lasci abbindolare un'altra volta dalle false premure della signorina Bingley. Lo crederesti, Lizzy, che lo scorso novembre, quando andò a Londra, mi voleva già veramente bene e soltanto la convinzione di essermi indifferente lo trattenne dal ritornare. Sei un pochino sbagliato, non c'è dubbio, ma ciò fa onore alla sua modestia. Naturalmente questo diede luogo a un panegirico da parte di Jane, della scarsa fiducia che egli aveva di sé e del poco conto in cui teneva le proprie virtù. Elizabeth fu lieta di scoprire che non aveva lasciato trapelare l'intromissione del suo amico, perché sebbene Jane avesse il cuore più indulgente e generoso del mondo, ella sapeva che questo fatto l'avrebbe mal disposta nei riguardi di lui. Io sono certo la creatura più fortunata che sia mai esistita, esclamò Jane. Oh, Lizzy, perché devo essere proprio io la prescelta di tutta la mia famiglia, benedetta più di ogni altro? Se potessi vedere te altrettanto felice, se soltanto esistesse un altro uomo come lui, per te. Anche se me ne dessi 40 di uomini come lui, io non potrei mai essere felice come sei tu. Non ho il tuo carattere, la tua bontà, non potrò mai avere il tuo grado di felicità. No, no, lascia che me la sbrighi da sola, e magari, se proprio la fortuna mi assiste, chissà che col tempo non incontri un altro signor Collins. Un simile stato di cose nella famiglia di Longbourn non poteva rimanere a lungo segreto. La signora Bennet ebbe la soddisfazione di dirlo in un orecchio alla signora Phillips, la quale si arrischiò senza permesso a fare altrettanto con tutte le vicine di Meryton. Fu presto sentenziato che i Bennet erano la famiglia più fortunata del mondo, benché soltanto poche settimane prima, al tempo della fuga di Lydia, si fosse concordemente concluso che si distinguevano per la loro sfortuna.